Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Nel giro di due partite sulla carta non impossibili, Milan si è mangiato un po' del gruzzolo che era riuscito a mettere da parte, non tanto nei confronti di chi insegue più da vicino quanto rispetto a chi arriva da lontano, nella fattispecie l'Inter, il cui distacco virtuale, e sottolineo virtuale perché poi le partite con Cesena mercoledì e Fiorentina fuori casa il 16 febbraio, bisogna poi sempre ancora vincerle, dicevo, il distacco virtuale è ridotto ormai a soli 3 punti. Qualche curiosità statistica in attesa di riascoltare le voci più significative del fine settimana e poi di ospitare come sempre ogni lunedì i vostri interventi. Vi dicevo del Milan, una sola vittoria, quella di Cagliari, e tra l'altro nemmeno poi così convincente nelle ultime 4 partite, con 2 pareggi e 1 sconfitta. Il fattore Kozak per la Lazio, 3 punti ieri, ma è il secondo gol in Serie A per questo gigante ceco, e 6 punti portati alla causa laziale con il gol vittoria a Firenze e con quello di ieri alla Sampdoria, più aver propiziato l'autorità di Zapata nel 3-2 di Lazio-Udinese. La Roma non aveva mai vinto a Cesena con 8 pareggi e 3 sconfitte. E c'è riuscita ieri, molto curiosa quella che riguarda Juventus e Bari e i confronti diretti tra i due allenatori. Perché? Perché Del Neri non batteva Ventura, pensate, nel 1996, ma la categoria era un po' diversa perché si giocava Nocerina Del Neri e Lecce Ventura ed era finita 2-1 per la Nocerina di Del Neri. Ce ne sono altre da ripassare, tra cui in particolare quella di Xavier Zanetti. Risale all'altra sera, ma insomma il fatto che abbia agganciato Beppe Bergomi a 519 presenze in Serie A con la maglia dell'Inter mi pare di gran lunga la più significativa. Qualche altro numero più tardi, adesso cominciamo il riascolto delle voci più importanti. Partirei proprio dal pareggio di Lecce, perché è un'altra frenata, dicevo, per il Milan sulla via verso il titolo. Allegri: cerchiamo di sfruttare Ibrahimovic per quello che sono le sue qualità, che sono immense, e anche il gol che ha fatto oggi è di straordinaria bellezza. E la cosa che dispiace è aver lasciato 2 punti in una partita che avevamo in pugno e abbiamo preso gol nell'unico modo in cui lo potevamo prendere. Il primo tempo ne avevamo creato moltissimo, anzi poco, perché eravamo poco mobili davanti. E il secondo tempo, dopo il gol e anche per tutto il secondo tempo, la squadra ha fatto una buona partita, abbiamo creato diverse occasioni, dopo l'1-0 non siamo riusciti a chiuderla e dopo può capitare nel calcio di prendere un gol come abbiamo preso. Difatti è capitato. Quello di Ibrahimovic ieri, quel gioiello mancino assolutamente frutto dell'inventiva, dell'ispirazione, della classe evidentemente di questo giocatore, ha oscurato delle prodezze sempre mancine che si erano viste nel pomeriggio. 2 a Brescia, il gol prima di Bega e poi di Diamanti, quello di Milanetto con un coefficiente di difficoltà anche superiore, perché era un tanto perché Milanetto è solo destro e poi perché quel sinistro al volo dal limite di controbalzo, dovendo trovare l'equilibrio in base al rimbalzo, è stato veramente un gioiello assoluto, forse persino più difficile di quello di Ibra, perché Ibra poi è un'ispirazione, no? Che viene all'artista e però va tenuto presente che Ibrahimovic è partito dalla sua area, perché era un calcio piazzato per il Lecce che Ibrahimovic ha contribuito a respingere, poi è partito senza palla, è andato e quando la palla l'ha raggiunto ha fatto quei pochi passi e da quella distanza ha trovato quella traiettoria incredibile, avendo visto con la coda dell'occhio il portiere fuori porta. Il gol di Ibrahimovic e il pareggio leccese nella versione di Rosati. È stato molto bravo lui nella prima occasione a fare quel tiro, diciamo, a sorprendere un po' tutti, perché di spalle alla porta e uno non se l'aspetta che venga fuori un tiro così, però da campioni come lui ci sta anche questo. Poi però nella seconda occasione è andata meglio a me, sono riuscito a respingere un suo tiro da distanza ravvicinante. Ho pensato che comunque la nostra partita si fosse messa in salita, perché squadre come il Milan andare in svantaggio di un gol, anche se in casa, comunque è difficile poi recuperare. Invece siamo stati bravi a ripartire, a non buttarci giù e poi a pareggiare la partita. Ha ragione il portiere del Lecce, bravi a non deprimersi, però vista dall'altra parte ha sbagliato il Milan, perché si è visto in quei pochi minuti finali dopo il pareggio Leccese quante risorse ancora avesse per riprendere in mano la partita, e quindi quelle risorse tanto voleva spenderle prima per cercare di chiuderla la partita, anziché rischiare, come poi è accaduto, di farsi raggiungere. Stefano da Udine interviene e scrive: in questo momento penso che l'Udinese sia la squadra che gioca il calcio più divertente da vedere. Condivide? Beh sì, in pieno. Allora, intanto l'Udinese, vado a riprendere le statistiche di Franco Piantanida. Dunque l'Udinese era partita, no? Ce lo ricordiamo, con 4 sconfitte consecutive nelle prime 4 giornate, al punto che era stato necessario una presa di posizione del presidente Pozzo, dell'azionista di riferimento Pozzo, per dire che Guidolino non si sarebbe toccato in ogni caso. Quindi nelle 16 giornate successive l'Udinese ha messo insieme 30 punti, con una marcia progressivamente sempre più autorevole. Nelle 2 ultime partite, che sono state 2 trasferte, ha segnato 8 gol fuori casa, cioè sembra di parlare del Barcellona quasi, di cui poi parleremo più tardi per darvi conto di numeri assolutamente stratosferici. Ha segnato 8 gol fuori casa, 4 sul campo del Milan, che non gli sono bastati per vincere la partita, e 4 ieri su quello del Genova, sia pure un paio discutibili, perché adesso sta diventando di moda, lo notava anche Paolo Casarin stamane nella sua rubrica sul Corriere della Sera, sta diventando di moda il gol in leggero fuorigioco, che ieri mi pare abbia riguardato la Roma, ha riguardato un paio di volte l'Udinese, ha riguardato l'Inter l'altra sera, ha riguardato la Lazio. Leggero fuorigioco, che non significa che sia un'infrazione grave, perché in effetti si sta parlando di una decina di centimetri massimo in ciascuno di questi casi, però la riflessione da fare è se, a parte il gol di Matri anche in fuorigioco ieri a Cagliari, ma quello in tempo reale si è visto molto meno, è poi una curiosità che è venuta fuori dopo, la norma non scritta, diciamo le istruzioni per l'uso per l'assistente, da qualche tempo, da qualche anno ormai, dicono che nel dubbio la bandiera deve restare abbassata, quindi l'assistente non deve segnalare il fuorigioco. Però la sensazione, appunto, in base a queste ultime giornate, e quella di ieri in particolare, è che forse si stia un tantino esagerando in questa tendenza, no? Nel dubbio non sventolare, e va bene, ma ieri in questa giornata sono usciti 4-5 gol in leggero fuorigioco. Continuiamo con il ripasso di quello che è accaduto e sentiamo direi del Neri, perché al di là della vittoria non ancora scacciacrisi per come è maturata, però significativa per le condizioni di organico ridotte veramente all'osso, soprattutto davanti, che la Juventus ha potuto schierare ieri, del Neri in particolare sui due uomini totem delle discussioni di quest'ultimo periodo, e cioè Del Piero e Buffon. Di Ale sapevamo che le qualità non si nascondono, è chiaro che da giocatori come lui, come Buffon, come Chiellini, come tanti altri che entreranno, mi aspetto delle giocate importanti, ma anche la qualità di stimolo per i giovani giocatori che abbiamo adesso e che devono farsi esperienza, chiaramente. Però sono molto soddisfatto, per i punti sono tanta cosa, vedendo come li abbiamo, con che formazione, con che gioventù li abbiamo affrontati. Mi sembra che Gigi Buffon, se sta bene fisicamente, se sta recuperando bene, non vedo chi possa giocare al suo posto, con tutto il rispetto per i portieri che abbiamo. Penso che Marco abbia capito questo, è molto sereno. Loro due vanno molto d'accordo. Che rimpianto di Natale per la Juventus, scrive Marco Manzardo. Oggettivamente sì, però intanto starò di Natale non volerci andare, perché la Juventus gli occhi ce li aveva messi. Se dipendeva da lei, cioè da lei Juventus, l'affare si faceva, è stato di Natale. Certo, il fatto che proprio stamane sia stato quasi ufficializzato il passaggio di Floro Flores alla Juventus in prestito, insomma, sottolinea che un po' di differenza tra questi due giocatori, soprattutto come utilità per una squadra di alto livello, oggettivamente c'è. Il traffico. Dicevo di Floro Flores, secondo una notizia ANSA, è addirittura d'arrivo questo prestito alla Juventus, è stata definita la trattativa per 1,5 milioni per il prestito e un riscatto fissato a 10 milioni con il club friulano. Nel pomeriggio l'annuncio ufficiale della società torinese. I primi due ascoltatori di oggi, per esempio Filippo da Grosseto, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Innanzitutto le cifre di Floro Flores mi sembrano abbastanza eccessive per il tipo di giocatore. Comunque, questo non era quello che volevo dire. Volevo dire dei numeri del Barcellona, che ho sentito ha fatto insomma un girone d'andata irripetibile, penso, e mi chiedevo se effettivamente il Barcellona gioca a memoria, grandissima squadra, ma davvero se questo campionato spagnolo, oltre a Barcellona e Real Madrid, aveva il pari in parte insomma di valore, oppure diciamo era un po' decaduto a livello qualitativo, a parte queste due grandi. E poi il ritorno dell'Inter che io da interista sono contento, non tanto per i giocatori che sono sempre soliti, ma più che altro per lo spirito che vede Lampo Maicon, che finalmente è tornato a correre, cosa che nel girone d'andata non avevo visto. Tutto qui. Grazie Filippo. Beh, è indubbio che tra Barcellona e Real e il resto del gruppo in Spagna ci sia una differenza abissale, lo dicono i punti. Sul fatto che tutti gli altri siano materassi, io qualche riserva ce l'avrei. Io dico che il Villarreal nel campionato italiano è tranquillamente dove adesso ci sono il Napoli, la Lazio, non dico il Milan, ma forse sì, insomma siamo lì. Quindi è vero che ci sono squadre che non possono disturbare due squadroni di quel genere, ma credo che più che scarse le altre siano proprio stratosferiche queste. Lei pensi che Real Madrid ha totalizzato 48 punti sui 57 disponibili, perché è finita ieri l'andata in Spagna, e avendo fatto questo strepitoso bottino è staccato addirittura di 4 lunghezze dal Barça, il quale Barça ha stabilito il nuovo record assoluto, perché nessuno aveva mai realizzato 52 punti sui 57 disponibili nelle prime 19 giornate, cioè nel girone d'andata. Ha segnato 61 gol, ne ha subiti 11, quindi una differenza reti di 50. So, faccia dire i conti lei, giocando anche in un modo salvo un paio o tre ripartite vinte per 1-0 e gestite in maniera così, in maniera tranquilla, ma senza troppo spendersi, giocando quasi sempre a livelli eccezionali e creando dipendenza. Questo è il fenomeno, non dico negativo, ma insomma un effetto collaterale, perché in chi come me, per esempio, ci ha preso gusto a vedere giocare a calcio in quella maniera, beh, insomma, io sinceramente il sabato e la domenica sera, quando gioca, faccio un po' fatica a scegliere il campionato italiano, qualunque partita sia, se dall'altra parte c'è lo spettacolo del Barcellona. Un test, mi segnala giustamente Franco della redazione, per valutare il valore delle terze e quarte forze spagnole sarà questo Napoli-Villarreal di Europa League, che tra un mese circa metterà di fronte queste due squadre. Ma ripeto, il Valencia e il Siviglia quest'anno sono discretamente in flessione, hanno anche ceduto, soprattutto il Valencia, un paio di delle loro pedine migliori, no? Viglia per esempio, Silva, se parliamo di Valencia. Il Villarreal mi sembra che sia una squadra che sta giocando un signor calcio, e sarà davvero interessante questo confronto diretto col Napoli per così, anche per non stabilire, ma insomma per avere un parametro in più sul reale valore dei due campionati. Vincenzo ha chiamato da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo una sua opinione su quello che sta succedendo alla Juve. L'anno scorso, con una società balbuziente, un allenatore alle prime armi, con una struttura che aveva da consolidarsi, eccetera, la squadra ha fatto dei risultati che quest'anno ancora non sono stati raggiunti, addirittura. Penoso, due partite col Salisburgo, due punti, però adesso sono tutti bravi. Del Neri, bravo, che fa giocare per tre volte consecutive laterale destro Sorensen, e Marotta è un fenomeno che forse io credo che abbia una visione distorta ancora, che crede adesso alla Sampdoria, forse, perché giocatori da Juventus, se non era mai esistito che la Juve venisse bocciata da Di Natale, da Borriello, è fortuna. Quagliarella, pescato così per caso, ha fatto una cosa straordinaria, perché 9 gol in le partite che ha giocato, però qui sono tutti contenti, standing ovation, ma io non capisco. Lei un capisce. Di calcio ne capisco, ma non capisco, cioè siamo alle comiche. Beh, insomma, adesso alle comiche magari no, certamente non è la Juventus di un tempo, questo mi sembra evidente. Lei ha centrato il problema, però se Di Natale e Boriello dicono no, uno preferisce la Roma e l'altro preferisce starsene dov'è, a Udine, ma è una scelta che ha fatto in tutta la carriera però Di Natale, è meglio prima nelle Gallie che secondo a Roma, si diceva un tempo, no? Con una citazione... una citazione latina, e quindi perché no? Va rispettato il diritto e il piacere di Natale di giocare come gli pare. Certo, una volta non andava così. Questo però non so fino a che punto sia merito di chi opera sul mercato materialmente come Marotta, che il giocatore l'aveva pure individuato, e quanto invece non sia un problema societario più globale di carisma, che indubbiamente non è più quello di un tempo, poi magari tornerà a esserlo, perché i numeri del tifo, ne abbiamo parlato anche di recente, i numeri del tifo bianconero non sono certamente crollati, hanno avuto una flessione, ma una flessione molto molto ragionevole in questi anni, stiamo pur sempre parlando grosso modo del 30% del tifo italiano, e il problema è che il carisma della, diciamo pure della società, di tutto quanto sono i vertici del pianeta Juventus, non corrispondono più alle attese delle basi, né tantomeno ai lustri del passato. Valentino dalla provincia di Bergamo. Grazie Gigi, buona giornata. Dunque, essendo tifoso dell'Inter, non so spiegare come mai Benitez non è riuscito a mettere assieme una squadra, anche se poi c'erano questi infortuni, non infortuni. Però c'erano i giocatori che lui non ha capito che erano dei campioni che avevano vinto qualcosa e voleva togliergli a queste persone quella felicità di giocare. Che abbia sbagliato la società o che non abbia sbagliato, questo non lo so. Con Leonardo invece, finché dura, ridono, scherzano, giocano. Ha fatto una rete sabato sera e che è una cosa da cineteca con quel passaggio lì. Vuol dire che hanno creato quell'armonia e attualmente i campioni d'Europa sono loro, anche campioni del mondo, anche se Benitez ha contribuito a vincere quello lì. Poi dopo ieri sera guardando il Milan, cioè se il Milan ieri sera avesse vinto, per me il Lecce aveva tutte le ragioni di lamentarsi, perché il Lecce ha fatto una grande partita. La ringrazio Gigi. Grazie a lei, se contiamo le occasioni io credo che avrebbe avuto tutte le ragioni di non avrebbe avuto alcuna ragione di lamentarsi, perché mi sembra che le occasioni siano state soprattutto nella finale di gran lunga la parte del Milan, come è logico che sia, vista la differenza di caratura delle squadre. Dopodiché il Lecce non ha rubato assolutamente nulla e si è portato via un pari meritato, ma non sarebbe stato certamente uno scandalo. Paolo scrive: ma quell'imbarazzante portiere portoghese del Genoa pensa che riuscirà a far retrocedere la squadra? Mi sembra che quest'anno abbia sulla coscienza parecchi punti persi. Parecchi punti persi sì, ma persi in maniera grave, perché per tornare a Valentino, l'Inter di Benitez a Genoa non vince mai se non c'è quella papera gigantesca del portiere sul tiro di Muntari, l'errore di ieri, che poi non è neanche un errore, insomma un'amnesia, perché lì poi sembra anche di voler infierire, no? Quando uno fallisce un rinvio in uscita oltre il limite dell'area, insomma, è una disavventura che ogni tanto si vede, però si vede mai dire gol, insomma, una volta si diceva che si vedeva mai dire gol, non su un campo di Serie A. Leggevo poco fa su una delle ultime ore, ultime notizie in sovraimpressione di Sky, che il Genoa sta trattando, pare si stia interessando a Marchetti, il portiere in disgrazia a Cagliari dalla scorsa estate. Allora, a parte che la vicenda di Marchetti meriterebbe forse un giorno o l'altro una riflessione o un approfondimento, beh, credo meglio tardi che mai, perché già la campagna acquisti del Genoa estiva è stata curiosa, mettiamola così. Altrettanto curiosa mi sembra che siano le mosse della società in questo periodo, anche perché a 23 punti, a quota 23, non mi sembra ci sia molto da scherzare, no? E l'idea che possano andarsene anche Criscito e Sculli, come si legge in questi giorni potrebbe anche non essere particolarmente rassicurante, soprattutto tenendo quel portiere. Se invece comincia a arrivare qualcuno che sostituisca un citofono, beh, insomma, allora forse le cose potrebbero anche migliorare. Ci sta ancora un ascoltatore, sì, Stefano, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per lo spazio a disposizione. Due piccole considerazioni: quanto ha inciso la Coppa del Mondo per club sull'Inter e quanto ha inciso invece lo scarsissimo feeling con Benitez? E poi seconda cosa, che più che altro è una considerazione: se si può eliminare la parola importante dal vocabolario di allenatori, calciatori, pseudo giornalisti, e ovviamente non sto parlando di voi, eccetera eccetera eccetera. Sembra diventata l'unica parola esistente nel vocabolario italiano. Grazie di ascolto per radio. Grazie Stefano, è da anni sei per questo, perché è un aggettivo non importante. Si dice importante proprio perché è un aggettivo, come dire, che non ti condiziona, no? Non, è un aggettivo positivo, ma non è un superlativo. È quella via di mezzo, ma tendente verso il sì, cioè verso il positivo, per l'appunto, che probabilmente rassicura. E poi è entrato nel linguaggio comune e insomma ha sfondato, ecco, diciamo che è di tendenza, lo è da anni, però non soltanto in questi ultimi tempi, e non c'è verso di estirparlo. Lei ha ragione. Molti ascoltatori vedo già collegati da Latina, da Palermo, da Padova, da Roma. Volevo sentire un commento di Ballardini alla sconfitta di ieri. C'è un ascoltatore, si chiama Claudio, scrive da Monza e dice: il portiere del Genoa ha già fatto esonerare Gasperini, adesso toccherà anche a Ballardini. Ma insomma, non credo sia stato proprio soltanto il portiere, ma indubbiamente questo è un problema che il Genoa, che pensava di averlo risolto per chissà quanto tempo con questo portiere della nazionale portoghese, tra l'altro, poi è un problema invece che si trascina da inizio stagione. Sentiamo Ballardini. Il Genoa per 75 minuti ha fatto una grande partita, gli ultimi 15 minuti no, perché ci siamo slegati completamente con poco equilibrio e molta confusione. È vero che tutte queste notizie comunque incidono e speriamo di risolverla al più presto. Facevo riferimento a Sculli e a Crisito perché sono anche questi al centro così del mercato, sembra. E quindi io facevo riferimento a questo: prima si risolvono queste questioni avremo dei vantaggi tutti quanti, la società, la squadra e i giocatori stessi. Cesare ha chiamato la Latina, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, volevo parlare anch'io della trasformazione dell'Inter. Non, mi sembra di aver capito che lei non dava la colpa anche a Benitez, ma a me mi sembra di capire invece che era solo dovuto agli infortuni. Da quando è rientrata certa gente mi sembra che la squadra è cambiata totalmente, non pensa lei? Sì, non penso soprattutto di aver mai dato la colpa a Benitez, ecco, questo non mi risulta e non mi ricordo. Ho detto soltanto che ad un certo punto una crisi di cui lui, a parer mio, non aveva colpa, aveva finito per travolgere in parte anche lui, e ho cominciato a vederlo da qualche scelta, prima da qualche scelta tecnica, cioè Materazzi in un derby è impresentabile, prima di vedere che commette fallo dopo tre minuti, non commette fallo, che regala un rigore a un certo Ibrahimovic dopo tre minuti, cioè questo lo si deve sapere prima, secondo me, e non è il senno di poi. Dunque da qualche scelta discutibile si passa poi ad altre anche dialettiche, insomma, il fatto che avesse vinto, insomma, che avesse contribuito a vincere questa Coppa del Mondo contro il Mazembe, e non mi ricordo nemmeno come si chiamasse l'altra, insomma, lo ha autorizzato a levarsi dei macigni dalle scarpe che sinceramente erano leggermente sproporzionati rispetto al significato tecnico dell'impresa. Da lì la fine di un rapporto. Questo era quello che imputava Benitez, non mi sembra molto in rapporto a quanto alle accuse che invece gli erano state mosse durante quella sua gestione certamente non felice, e in gran parte, non dico totale, ma in gran parte dovuta per l'appunto agli infortuni. che poi questi infortuni dipendessero, fossero riconducibili anche, soltanto anche, ma a qualche sua responsabilità gestionale o di preparazione, beh, questo è sempre difficile dire, e chissà, magari sarà il tempo poi a confermarlo oppure a smentirlo in maniera definitiva. Antonio ha chiamato da Palermo, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, io volevo parlare un attimo degli arbitraggi sul Palermo, diciamo. So che a lei il nostro presidente non è tanto simpatico. No, ha rilasciato delle dichiarazioni di rara civiltà proprio ieri, mi sembra, no? Che adesso magari vado anche a ripescare. Perché credo che siano sempre messaggi positivi per il mondo dello sport. Adesso tra un po' gli risegnalo, ma lei continui nel frattempo. No, comunque io ho sentito sì le parole, lui magari è vulcanico e sì, sbaglia, non dico, su quello sono d'accordissimo con lei. Però sinceramente su 20 giornate neanche un calcio di rigore a favore. Io le seguo tutte le partite del Palermo, sia allo stadio che sono su Sky, sulla televisione. Non mi sembra che il Palermo è l'ultimo attacco, se non sbaglio sarà il terzo. Cioè io le posso elencare, adesso me ne vengono a mente, beh, a parte le ultime sì, ma lei me le risparmi, io sto sulla fiducia e le credo, e in ogni caso ricordo per esempio quello di domenica scorsa negatogli a Verona contro il Chievo, e su quello non c'è dubbio, per esempio, ma mi risparmi gli altri però, per cortesia. Comunque mi sembra un po', non so, volevo sentire cosa ne pensava lei. Tutto per radio, ringrazio. Grazie a lei Antonio. Ci sono ogni anno c'è un, non c'è accanimento secondo me, ma c'è una squadra grande difficile, ma insomma media o piccola, che statisticamente ha tutto diritto di lamentarsi dei trattamenti arbitrali. Io ripeto, non credo alle persecuzioni perché non ci credo e basta, credo però credo invece alle concomitanze, alle casualità, alle congiunzioni astrali, che poi qualche volta possono magari anche, adesso non dico diventare accanimento, ma se Zamparini dice come ieri al culmine di un lungo discorso accusatorio con accuse molto molto pesanti di malafede insomma, di cose di questo genere, dice che il posto degli arbitri sarebbe in galera, perché questa è stata la sintesi del suo discorso, beh, io non escludo che questo possa non migliorare i rapporti arbitrali con il Palermo, no? E quindi credo che alla fine una piccola parte di spiegazione, magari minima, ma possa poi anche essere questa a gioco lungo. Saverio Padova, buongiorno. Buongiorno, niente, io volevo una sua opinione per quanto riguarda la Roma. Come mai questa squadra non riesce ancora ad ingranare fuori casa? E poi un'altra cosa, secondo me le due forze del campionato rimangono ancora Roma e Inter, nonostante la classifica. Grazie. Beh, sull'Inter direi che non ci sono dubbi, sulla Roma comincio ad averne invece. Avevo pochi dubbi fino a non molto tempo fa, però vedo che non c'è verso di decollare, ma soprattutto vedo che i rapporti, anziché semplificarsi, si complicano. Quando non è Totti e Vucinic a lamentarsi, quando non è uno e l'altro, tutte le squadre ormai, e soprattutto le squadre di un certo livello, hanno problemi di abbondanza. Ogni squadra ha il suo gesto di malumore settimanale, più o meno espresso, più o meno plateale, più o meno trattenuto. Nella Roma però mi sembra che stia un tantino esagerando da questo punto di vista, e questo è segno di malessere, è oggettivamente segno di malessere. Continuo anche a non capire certe scelte del suo allenatore, né da un punto di vista caratteriale né da un punto di vista tecnico, quindi comincio a pensare che la Roma è capace di tutto, intendiamoci, perché nel bene come nel male, e quindi può anche darsi che da una vittoria rapinata come quella di ieri riesca su questa vittoria immeritata, riesca a edificare chissà quale rimonta. L'ho fatto l'anno scorso, leggevo stamane che ha gli stessi punti in classifica esattamente in un anno fa, quindi la rimonta miracolosa che fece lo scorso anno è ancora possibile, molto a maggior ragione, perché allora c'era una grande squadra davanti che aveva molto vantaggio. Oggi una grande squadra con molto vantaggio davanti non c'è. Però mi sembra che ne manchino i presupposti, ripeto, tecnici e soprattutto ambientali. Diego ha chiamato da Taranto, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, le volevo dire, io sono simpatizzante milanista, soprattutto tifoso del Taranto, la mia città, speriamo che torni in categorie più consone alla città. E volevo dirle questo, gira voce, non so se le risulta, che il vero motivo del trasferimento di Leonardo all'Inter sia che la sua donna, la Billo, sia appunto dipendente di Sky e quindi vive a Milano. Ne sa qualcosa? La ringrazio, l'ascolto in radio. Ma io sono quasi pentito di aver ascoltato lei, sinceramente, perché se lei pensa che lì, perché io partirei da questo presupposto, è difficile che sia un allenatore a scegliere la squadra in cui, che va ad allenare, no? Perché sennò sarebbe un pochino facile. Credo sia una società che sceglie un allenatore da cui essere allenata. Ora, che una società che tra l'altro staremmo parlando dell'Inter in questo momento, riportiamoci a 2 mesi fa, qualche problemino di gestione, qualche problemino di sostituzione, deve trovare una persona che corrisponda a un certo identikit, che quella società si ponga il problema come primo parametro dell'identikit che era fidanzata dell'allenatore, risiede a Milano. Beh, insomma, io credo che ci vogliano tutti i guasti che le televisioni e i gossip e i settimanali specializzati in materia hanno fatto in questi anni nella mente dei compatrioti. Ecco, temo che sia così. Agostino, provincia di Padova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Premetto che sono dell'Inter. Volevo farle due domande. Primo, ho letto sulla Gazzetta dello Sport, mi sembra, che l'Inter sta andando bene sotto l'aspetto forse psicofisico e degli infortuni, anche per la preparazione che ha fatto con Benitez, una preparazione pesante, ho letto. Questo mi meraviglia un po', perché tutti gli infortuni che ha avuto, ma non lo so, adesso mi sembra che in questo periodo siano di una leggerezza oltremodo entusiasmante. E poi la seconda domanda è, nel momento in cui l'Inter dovesse vincere le 2 partite di recupero e portarsi a un certo punto in classifica, lei pensa che quella vicinanza, così il Milan possa soffrire un attimo di questa troppa vicinanza? La ringrazio per la risposta. Guardi, sulla preparazione non le so dire, sulla vicinanza il Milan la sta già soffrendo adesso che non c'è la vicinanza, quindi la sta già soffrendo adesso che sono 9 punti, si immagini quando saranno o fossero a 3. C'è un bel messaggio molto interessante, mi spiace di doverlo rinviare di almeno un minuto perché siamo in leggero ritardo per le informazioni sul traffico. Eccolo quel messaggio che vi avevo preannunciato e che nel frattempo, grazie a Franco Piantanida, ho avuto la possibilità di riscontrare. Scrive Marco: se non sbaglio il Barcellona ha avuto solo un rigore a favore in tutto il girone d'andata, eppure entra in area almeno 15 volte a partita. Marco, qui la devo correggere perché le volte a partita sono almeno 30, ma proprio per stare leggeri. Bisognerebbe ricordarlo a tutti i presidenti ogni tanto, ma insomma potremmo cominciare a ricordarlo a Zamparini, per esempio. C'era stato prima l'intervento di Antonio da Palermo, no? che ricordava per l'appunto come il Palermo non abbia avuto un solo rigore a favore in campionato, e cosa che indubbiamente è imputabile agli arbitri, perché in qualche occasione, e ne ricordo uno in particolare la scorsa domenica a Verona, l'ho già detto, un calcio di rigore netto per il Palermo c'era. Eppure il Barcellona ha avuto un calcio di rigore nella partita contro l'Osasuna, stava vincendo 3-0, gli è stato concesso questo rigore che è l'unico del girone d'andata, quindi ha segnato 61 gol di cui uno su calcio di rigore. Ecco, questo potrebbe essere un buon ripasso per gli intellettuali alla Zamparini. Francesco da Roma, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, volevo farle una domanda. Cosa ne penso di questo Bari visto all'ultima posizione, no? E con questi rinforzi secondo lei potrebbe uscire da questa situazione? Ascolto per radio, salve. Fa fatica Francesco, quest'anno penso proprio che faccia fatica, lo dice anche la partita di ieri, secondo me, perché ad un certo punto del secondo tempo Juventus-Bari era diventata una lotteria, nel senso che sono andati avanti non so quanto tempo a giocare con 40 metri in mezzo al campo di nessuno, 20 metri per parte rispetto alla linea di metà campo non c'era nessuno, e giocavano a tamburello da una parte all'altra per vedere chi faceva il gol del 2-1. E questo da una parte dice che il Bari ha ancora voglia di lottare, di giocarsela anche sul campo di una grande squadra, dall'altra parte dice però che ormai è costretto da un lato a giocare a rischio a tutto per la situazione di classifica, e dall'altra che se non ci riesce ieri a far punti contro una delle peggiori edizioni della Juventus dal punto di vista tecnico e tattico che si ricordino in questi anni, beh, insomma, è un po' difficile che riesca a centrare la rimonta. Ed è un peccato, perché il Bari ha un impianto di gioco più che rispettabile, che anzi all'inizio di queste stagioni, soprattutto quella scorsa, ma senza escludere questa, aveva caratteristiche di eccellenza, soprattutto nel palleggio difensivo, ma poi le cose sono precipitate e mi sembra difficile adesso, possibile no, ma difficile riuscire a ricucire il distacco. Salvatore ha chiamato la Lecce, buongiorno. Pronto, buongiorno, grazie per l'ospitalità innanzitutto. Ho sentito l'intervista di Allegri dicendo che il primo tempo ha strafatto la partita di ieri sera con il Lecce. No, che ha sbagliato il primo tempo. Ha sbagliato il primo tempo, ha detto. No, ma se non sbaglio, io gli ho visto la partita. C'è stata una squadra che ha tirato in porta nel primo tempo, è stata il Lecce, ha segnato ed è stato un gol annullato, senza sapere per quale motivo. E poi volevo chiederle una cosa cortesemente. Anche due. Quante possibilità ha il Lecce di salvarsi? Beh, alcune, soprattutto finché Di Canio sa leggere la partita a differenza, finché De Canio riesce a leggere la partita in maniera diversa da come la leggono certi tifosi, come lei, senza alcuna offesa per carità, cioè finché mantiene i piedi per terra e ha un pizzico di sano realismo, io credo che il Lecce di possibilità ne abbia, non dico parecchie, ma ne abbia alcune. Mi spiace che lei non abbia ascoltato esattamente il commento di Allegri, che in genere in queste cose è particolarmente onesto. Allegri ha proprio detto che il Milan ha regalato un tempo in pratica, no, al Lecce, che era il primo, e quindi l'ha pensata alla stessa maniera, ma lei da tifoso ha voluto subito attribuirgli qualcosa di negativo. C'è in linea Renzo da Rieti, buongiorno. Buongiorno, buonasera dottor Galanzini, mi scusi, una cosa sul Milan, io sono milanista e ho visto francamente una squadra molto molto brutta ieri sera. Io volevo dare un giudizio, ma è possibile che sono 3 anni che il Milan va a Dubai a gennaio e quando torna è sempre sulle ginocchia? Ma non è, come mai? Per quale motivo? Non ho idea, Renzo, sono cose a cui presiede Milan Lab, e quindi io sinceramente mi inchino e non sono davvero in grado di intervenire in materia. Certamente questa flessione c'è, però è anche vero che prima di Dubai il Milan ha perso in casa una partita con la Roma giocata male, oppure parecchio male, quindi mi pare che la flessione stia durando già da un pochino di tempo, indipendentemente dall'intervallo o dalla ripresa del campionato. Quanto al fatto che da 3 anni il Milan va a Dubai, lei tenga anche conto che Fly Emirates è lo sponsor del Milan, che qualche urino lo investe sul Milan, e quindi, come dire, è possibile che la cosa, che, oltre al di là delle scelte di Milan Lab, è possibile che questa sponsorizzazione pesi da questo punto di vista. Sentiamo che cosa ha trovato per il 17 gennaio Nicola Filippone. Sembra ieri. 17 gennaio 1909. Al campo di Corso Sebastopoli, a Torino, la Juventus padrone di casa vince il suo primo derby, battendo i Granata per 3-1, con doppietta di Ernesto Borel e gol di Oscar Frey. I bianconeri pareggiano così la sconfitta subita la settimana prima. Sarà uno spareggio a stabilire quale delle due formazioni torinesi sfiderà la Provercelli nella finale del raggruppamento piemontese del campionato italiano. La bella se la giudicherà il Torino per 1-0, ma alla fase finale del campionato approderà la Provercelli, che andrà a vincere il suo secondo scudetto. Ci sono altri ascoltatori, a proposito di calcio di rigore, che ricordano come il Milan di Capello andò avanti per 2 anni senza un calcio di rigore e quei 2 campionati li vinse regolarmente. Insomma, bisognerebbe ogni tanto ricordarli, fare qualche ripasso, ma non tanto ai tifosi che giustamente per definizione tanto razionali non hanno da essere, quanto per l'appunto a chi porta responsabilità dirigenziali. Simone ha chiamato dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno Garantini. Senta, partiamo per questo. Siccome sono un tifoso genuano di vecchia data ormai, sì, inteso dalla nascita, e vedere la mia squadra che ormai è allo sbando, una squadra allo sbando che è proprio in campo senza idee e che quest'estate forse erroneamente è stata definita la regina del mercato. Io sento imputare le colpe all'allenatore, ma secondo lei un allenatore che non ha niente in mano, che ha appunto un cantiere aperto, cosa ci può tirare fuori da una squadra? Non lo so Simone, io l'allenatore attuale l'ho sentito elogiare da Preziosi al momento dell'insediamento con l'aggettivo aziendalista. Ora, dato che prima un ascoltatore, mi pare fiorentino, è intervenuto chiedendo di limitare l'uso dell'aggettivo importante, ecco, io all'aggettivo aziendalista mi sarei offeso nei panni di Ballardini, sinceramente. Ballardini non l'ha fatto, questo significa che Gasperini certamente aziendalista non era, e significa anche che Gasperini si era probabilmente messo di traverso rispetto a certe scelte societarie di questa stagione. Credo avesse seriamente ragione Gasperini. Grazie a tutti per oggi, grazie a Fabio Cantadori in regia, grazie a Fianco Piantanida in redazione, ci sentiamo domani.